L'attribuzione, diciamo così, automatica del solo cognome del padre, anche se i genitori sono d'accordo per assegnare il cognome della madre ai figli o alle figlie, potrebbe essere un retaggio patriarcale. Questa è, come dire, una frase estrapolata da una pronuncia della Corte Costituzionale che appunto interviene su un tema su cui in realtà sta intervenendo da diverso tempo. Ne parliamo con Angela Gennaro, che le ascoltatrici e gli ascoltatori di Radio Città Fujiko ascoltano, sentono tutti i martedì col notiziario in genere di Radio Bullets. Buongiorno. Ciao Alessandro, buongiorno e buongiorno a tutte e tutti. Allora, di cosa stiamo parlando? Qual è questo caso sollevato presso la Corte Costituzionale? Allora, parliamo del fatto che diciamo in generale in Italia è impossibile ancora, a differenza di quanto accada per esempio in Spagna e in alcuni paesi ispanici, attribuire il cognome materno ai figli e alle figlie che nascono. Si può fare solo ed esclusivamente in caso di accordo tra i genitori, quindi il padre, ci deve essere comunque una decisione del padre, l'accordo del padre si può fare o al momento della nascita, ed è la modalità diciamo un pochino più semplice, perché ormai è diventata immediata in virtù appunto di la citavi, sentenza della Corte del 2016, oppure si può fare anche diciamo dopo la nascita, però diventa un incubo di burocrazia. Ora, quello che sta dicendo la Corte Costituzionale, questa non è una sentenza, ma è un annuncio di sentenza che verrà. Ieri facevo una battuta con una mia collega, in buona sostanza, siccome questo tema non è che proprio scaldi gli animi, se la sta sollevando da sola di fronte a se stessa la questione. Non esattamente, diciamo, c'è stato il Tribunale di Bolzano che ha chiesto di dichiarare incostituzionale una norma del Codice Civile laddove non prevede, in caso di accordo tra i genitori, la possibilità di trasmettere a figli o figlie il cognome della mamma invece che di quella del papà. La Corte dice ok, però cioè, questa è una questione che va analizzata a tutto tondo, a 360 gradi, perché è una questione di costituzionalità, da allargarsi anche alle conseguenze, scusate sto passando in mezzo a un concerto live per strada, deve essere quindi allargata alle conseguenze anche di una mancata scelta, cioè se non c'è accordo, perché non c'è la possibilità appunto di dare il cognome materno, perché se per l'articolo 3 della Costituzione tutti i cittadini sono uguali davanti alla legge, a prescindere da sesso, razza, eccetera, eccetera, lo sono anche nell'attribuire il proprio cognome a figli e figlie. Questa più o meno, diciamo, questo è il quadro in cui ci muoviamo. Sicuramente, come sottolineavi tu, diciamo, il linguaggio utilizzato dalla stessa consulta è molto significativo da un punto di vista di cambiamento totale dei tempi e del fatto che è una questione di cui occuparsi. Poi a me questa vicenda, come dire, ricorda, e anche il comportamento, tra virgolette, della consulta, nel senso quello che la Corte Costituzionale deve fare, è tra virgolette obbligata a fare, è quella funzione di supplenza dell'attività del legislatore, no, del Parlamento, perché così come sul fine vita la consulta gliel'ha detto in ogni salsa, per favore, gli ha dato anche delle scadenze, diciamo, per favore fate qualcosa, è vostra competenza, è competenza del Parlamento, c'è un vuoto normativo, bisogna legiferare, e però trattandosi di temi etici, come si sa in Italia, diciamo, la questione è abbastanza difficile. Certo. E questo è quello che sta nuovamente facendo la Corte, diciamo con un altro iter. Certo, l'articolo di cui stiamo parlando è il 262 del Codice Civile, quindi basterebbe che il legislatore lo cambiasse, però appunto come già ricordavi poco fa, in Italia è difficile che questo avvenga e spesso interviene la Corte Costituzionale. Esatto, esattamente. Sì, sì, assolutamente, non ha, cioè ripeto, sul fine vita, come dire, l'esempio è stato ancora più lampante in qualche modo, anche evidente, perché era comunque una questione che è stata in qualche modo avanzata da una parte di politica, insomma di classe politica che di questi temi ha sempre fatto una propria bandiera, e lì c'era stata proprio appunto la Corte che aveva dato non ricordo quanto, un anno insomma di tempo al legislatore per intervenire, e questo non è successo. Nel 2016, quando appunto si è arrivati alla sentenza che ora permette di aggiungere eventualmente, peraltro la chicca quando aggiungi il cognome materno è sempre dopo il cognome paterno, non solo il papà deve essere d'accordo, ma in automatico sarà sempre dopo quello paterno. Comunque, arrivati a quella sentenza, già lì la Corte disse sì, questo è il funzionamento, così deve andare, però c'è bisogno dell'intervento del legislatore. Quindi attendiamo con ansia e vediamo se le larghe intese, come dire, potranno occuparsi anche di questo tema, che non è piccolo, è un tema profondamente culturale, cioè una battaglia ovviamente storica per determinati movimenti, ma è anche una battaglia che viene sentita adesso, cioè ci sono petizioni online da anni che chiedono quantomeno di parlarne, quantomeno di cambiare rotta, ecco. Certo, ecco, al di là di questa sentenza che dovrà arrivare, vedremo appunto poi anche che applicazione giuridica avrà, però che valore ha il fatto che la Corte Costituzionale, quindi non stiamo parlando di un movimento femminista, utilizzi l'espressione appunto retaggio di una concezione patriarcale della famiglia, di una tramontata potestà maritale non più coerente con i principi dell'ordinamento e con il valore dell'uguaglianza tra uomo e donna? Assolutamente fondamentale, cioè appunto ti fa capire che questa non è più una battaglia di bandiera di un determinato movimento, ma è una questione che è del tutto attinente con i tempi che sono profondamente cambiati. Cioè siamo ormai pronti, è un po' veramente la distinzione tra diritto teorico e diritto di fatto, diritto naturale, cioè ormai la società civile in qualche modo, ma non solo la società, insomma il sentire dell'opinione pubblica in questo paese è pronto a un'uguaglianza in un momento così fondamentale che è quello della nascita, che è quello dell'attribuzione di un nome, un cognome, che è l'identità, a una persona che sta nascendo. Cioè ora la Corte non allarga il concetto a una madre se lo porta in grembo, dopodiché scompare, voglio dire, da un punto di vista di identità, però punta sulla questione uguaglianza e il nostro articolo 3 della Costituzione, che è semplicemente quello che viene, come dire, a cui richiamarsi, è bellissimo dopo tutto, sta lì da decenni totalmente inapplicato, e questa è una piccola manifestazione di quella non applicazione, ecco. Certo.